Una buonasera, o per meglio dire una buonanotte da parte di Max Macchia per 451 frammenti sonori, ovviamente dalle frequenze di Radio Città Fujiko. Salutiamo anche chi ci accompagna puntualmente o meno puntualmente come ospite, insomma, nascosto, fantasmatico, che appunto fa la sua anche durante la trasmissione. Salutiamo chi ci ascolta puntualmente, chi ci ascolta sia nelle frequenze appunto di Fujiko che invece dal blog, oppure magari fa entrambe le cose. Beati voi, insomma, no, beati insomma mica tanto, però perché vi sopportate anche cose tremende che dice sottoscritto. E comunque, insomma, salutiamo un po' tutti, siamo un po', come dire, larghi, di larghe vedute, di larghi saluti a questo punto. Max Macchia questa sera 451 vi presenterà una trasmissione che tra l'altro fa un po' il verso anche a un sottotitolo di una trasmissione di qualche settimana fa. Il titolo di questa sera è Probabili identità, su invece identità improbabili appunto di qualche trasmissione fa. Proprio un'identità perché sì, per molti versi possono essere portati alle prove, quindi essere di fatto, insomma, così affermate, autorizzate anche in un certo qual modo delle identità musicali, sonore, che tratteremo appunto questa notte qua a 451 frammenti sonori. E per iniziare andiamo a trovare uno forse delle identità più forti per quanto riguarda l'impro radicale, l'impro radicale che però gioca anche con tanta dada, con quelle avanguardie che più hanno spinto verso ludico e anche un divertimento che tante volte diventa irriverente. Eugene Chadbourne è stato anche per tanti aspetti parallelo, perlomeno negli anni 70, nella primissima parte della carriera di John Zorn, spesso si sono incrociati i due. E andiamo appunto a prendere proprio da un lavoro che vede l'altro genio americano cimentarsi con le radiofonie, con i suoni che provengono da, appunto, dall'etere. English Channel è il titolo di questo gioiello, appunto di un impro che va tanto a impattare con jazz apertissimo, come d'altronde poi la grande scuola sia zorniana che chadbourneana insegnano, e con quella elettronica evidentemente che viene manipolata già attraverso le onde radio, qua in questo caso ulteriormente trattata, per un lavoro, insomma, che per molti aspetti anticipa anche faccende che molto spesso saranno legate anche a improvvisazioni legate alla radiofonia, a lunghe frequenze, tipo molta musica industrial, anche per mezzi che, insomma, non esistevano ma erano decisamente minimali. Quindi ad esempio un John Duncan che lavora sulle onde radio, ma potremmo anche arrivare, trattando faccende fuori dallo sperimental, industrial, anche faccende che riguardano Basinski, e insomma una risma di personaggi che hanno fatto delle onde radio, della manipolazione poi di queste, e musiche anche decisamente affascinanti. Qua forse non c'è la fascinazione dell'etere profondo, ma c'è sicuramente, insomma, il gioco, insomma, questa volontà di rendere ludica la materia sonora radiofonica e di appunto identificarsi dentro questo flusso decisamente libero di English Channel, di Eugene Chadbourne, con vari collaboratori, ripeto, tra cui John Zorn. Where is that?

that West Virginia special again. Thank you. di un chatbot che si diverte e per molti versi fa diventare sì, anche così materia ludica l'impro radicale, che magari molto spesso invece è stata associata a momenti anche molto seriosi, addirittura momenti anche angosciosi. Intanto spernacchi ancora a chatbot nel suo English Channel, disco storico per molti aspetti, sia perché, come dicevo prima, una lavorazione magistrale, anche seppur dentro un gioco triturante, però un trattamento che è, insomma, è assolutamente da prendere in considerazione per quanto riguarda il portato poi che c'è stato riguardo alle sperimentazioni sul trattamento della radiofonia e delle onde radio, non tanto come suono legato appunto all'etere, ma proprio come trasmissione radio. In questo senso il lavoro di Patchwork, poi fatto dai Gene Chatburn, per molti versi ricorda anche, ma forse più che altro è parallelo, un altro grande, se prima abbiamo citato Zorn, che tra l'altro collabora appunto in questo English Channel proprio con Chatburn, beh, sicuramente si può citare Zappa per i lavori di collage, e forse più legati a un rock che poi andava a impattare verso le musiche contemporanee, verso delle improvvisazioni, partendo da un altro punto che era appunto quello più rockish del grande genio americano Zappa. Invece per quanto riguarda Chet Borna, se vogliamo partire insomma da delle identità appunto probabili, sicuramente quelle del jazz, e appunto si andava così a impattare il tutto verso una forma che liberava un linguaggio che poi sarà importante per non soltanto tanto l'impro, ma anche buona parte insomma della wave, che vedrà anche per certi aspetti anche coinvolto Chatburn, se pensiamo agli Scioccabilli, un gruppo di sì, impro billy, quindi di country free. Magari qualcuno potrà pensare, fa bene anche a pensare, insomma, che diavolo di faccenda sia musicale. Beh, è una faccenda piuttosto particolare, che magari insomma non mancheremo di fare ascoltare qua 451 frammenti sonori, con quel tanto anche di deviazione wave che c'era dentro appunto gli Scioccabilli, sia in termini di immaginario che di suono. E parlando di immaginari, soprattutto andando ad ascoltare immaginari che si possono assolutamente riportare a un'identità wave, post-punk, industrial, beh, sicuramente c'è quella di FM Night insieme a Gaspar Brotzmann. Ecco, due mondi che sembrerebbero molto molto separati, quelli della musica industrial, FM Night legato a Estrosen Neubauten, era il percussionista metallico di Estrosen, quando insomma picchiavano soprattutto sui metalli le Struzende, insomma. Poi FM Night se ne andò nei primi anni 90, quando poi prese un'altra direzione tutto il progetto a Struzende. Ha continuato a fare cose decisamente interessanti FM Night, magari anche andando a impattare proprio quell'impro che Gaspar Brotzmann proprio all'inizio stava facendo sua, se pensiamo insomma che il primo disco di Brotzmann e poco prima insomma di questo Merry Christmas di appunto FM Night insieme a Brotzmann, disco del questo qua nel 94, primo di Gaspar Brotzmann, tra l'altro col padre, quindi grande, uno dei giganti del Novecento, Peter Brotzmann. Ma direi che il figlio non ha mai sentito insomma l'ombra del padre, ha partito col primo disco con lui in maniera assolutamente non timida, e continua a fare faccende insomma decisamente interessanti, unendo appunto quella rabbia post-punk appunto tutto il grande canovaccio non solo del padre, ma di buona parte insomma dell'impro radicale e molto potente, perché insomma quella di Brotzmann è stato sicuramente del padre Peter Brotzmann, che tra l'altro concluderà la trasmissione di questa sera, quindi faremo anche una sorta di chiusura del cerchio di queste identità probabili, e con Merry Christmas appunto insieme a F.M. Night decostruivano sia il rumorismo, per quanto insomma è impossibile magari farlo, ma poi F.M. Night ha insegnato anche con varie collaborazioni anche a fare questo, se pensiamo insomma al smontaggio, come già si intendeva con Astor Zenneubauten, dei mattoni insieme, quindi alla parete di mattoni insieme a Pansonic, cosa che tra l'altro è avvenuta anche qua a Bologna, concerto strepitoso, la ricostruzione anche portata a un livello appunto probabile di identità vissuta fisicamente anche proprio da F.M. Night. E Gaspar Brotzmann che ne costruisce questo impro rock impattante verso un mondo wave o forse post tale, perché si stavano già immaginando suoni differenti. Ci andiamo comunque ad ascoltare questo Merry Christmas, siamo un po' lontani, è arrivato anche il caldo, ma insomma, ci rinfreschiamo con questo strano Natale. Qua si sente sicuramente dalla chiusura, insomma, del terzo pezzo che abbiamo ascoltato, da Merry Christmas, da dove viene, insomma, Ephemeral Night, ovvero appunto da uno dei momenti industrial più così definiti e identitari ovviamente di quella scena, ovvero Steve Zenno U-Botan, che va appunto qua a scontrare il mondo di Gaspar Brotzmann, questo primitivismo rockish appunto il figlio del grande Peter, che elabora un discorso, insomma, che partendo da una forte identità di tutte e due, familiare per quanto riguarda Gaspar e Ephemeral Night per certi aspetti anche familiare la sua, cioè dal Neue Deutsche Welle, di ABBA Wars e di varie collaborazioni, appunto passando per i Neubauten e poi arrivando per strade molto traverse anche a un impro sempre comunque piuttosto percussiva sia nelle corde che nei fatti, insomma, di musicali e sonori di Ephemeral Night, che comunque continua su questa elaborazione, questo percorso, identificandosi sempre di più dentro appunto quello che può definirsi in maniera molto molto larga l'impro. Gaspar Brotzmann per un periodo non si è fatto sentire, poi adesso da qualche tempo ha rimesso in piedi qualche progetto, ha suonato soprattutto col padre. E se insomma si tratta anche in maniera così piuttosto vaga per il momento, visto insomma quanto insomma hanno avuto come esperienza sia Brotzmann, Gaspar che Ephemeral Night, come pedigree nelle loro vite musicali, e quindi in questo senso la vaghezza poi comunque non ha fatto disperdere, anzi ha fatto identificare in un certo suono i loro percorsi musicali, anche facendoli incontrare appunto per questo Merry Christmas. Invece con Christian von Borries si va proprio dentro un'identificazione anche proprio dell'identità nazionale tedesca, e quindi si va anche su qualcosa di particolarmente spinoso, visto che devono affrontare anche gli anni 30, quindi gli anni legati insomma al nazismo. Tra l'altro Christian von Borries fa un'operazione piuttosto insomma ardita, perché va a prendere uno dei personaggi musicali più influenti per quanto riguarda la fine dell'Ottocento e primi del Novecento, e a livello musicale, ma anche a livello poi di quello che sarà un travisamento anche politico, Wagner, ovvero quindi anche tutto il pangermanismo, insomma, che sicuramente c'era dentro il grande compositore tedesco, e lo porta Wagner dentro il Palast der Republik, palazzo tra l'altro decisamente colpisce insomma a fondo, se passate da Berlino, messo sulla strada, tra l'altro adesso in ristrutturazione, quindi c'è questo edificio che non si capisce da quale strano momento storico possa essere venuto, perché appunto in trasformazione posto sulla strea, magari col battello che parte, quindi dà questo effetto, e poi sulla via che traccia insomma Berlino per buona parte, la taglia quasi a metà, quella insomma che taglia anche Mitte, ma non mi voglio dilungare insomma con geografie berlinesi, però ecco per dire che comunque è molto importante lo spazio utilizzato per interagire con Wagner da parte di Christian von Borries, che è appunto il Palast del Republik, opera del 2003, e c'è un'interazione vera e propria sia con lo spazio sonoro, quindi questo svuotamento anche che dà il Der Palast, e anche momenti proprio metallici, percussivi, che vengono creati da Christian von Borries, immagini video video che accompagnano il tutto, e in un'installazione insomma piuttosto gigantista, potremmo dire così. E ce l'andiamo a sentire quindi prendendo una parte di tutto ciò, ovvero soltanto l'audio, ma già ci dà un senso forte di una ricerca e anche piuttosto insomma difficoltosa, spinosa, dell'identità tedesca. Ricordiamo insomma come questo povero disastrato paese italiano insomma è di fatto da poco insomma unito, per quello che può significare la cosa, per tanti aspetti insomma la storia tedesca è vicina a quella italiana, anche ai noi, per faccende legate appunto al nazifascismo. E però questo non toglie insomma che Christian von Boris vada dritto, e anche poi per altri momenti storici, tipo i grandi momenti di insurrezione, perché insomma non ricordiamo soltanto quelli legati ai nefasti fascistoidi, ma anche quelle del biennio rosso italiano, che per tanti versi insomma si è molto avvicinato, con ovviamente diversità politiche, ma come insomma attitudini e atteggiamenti sicuramente anche al grande momento insomma dell'insurrezione berlinese, della Luxemburg, di Lübeck, e quindi insomma una storia che è inutile forse dirlo, è estremamente ricca nella propria complessità. Christian von Boris quindi con questo Wagner Complex appunto dentro il Palast della Republik Berlinese. dei momenti, un piccolo estratto ovviamente da un'opera, insomma, che bisognerebbe cogliere nella sua interezza, quello del suono legato all'ambiente, quindi della sound art, dell'utilizzo anche in maniera compositiva dello spazio sonoro, e quello del Palace de Republic, e quello chiaramente del grande compositore Wagner, che viene appunto modificato. Per meglio dire, c'è un'interazione anche piuttosto interessante tra spazio e musica, e quindi anche tra quel grande senso, insomma, molto tedesco tra spazio e tempo, quindi tutta quello che riguarda, insomma, la filosofia tedesca e la matrice più forte, insomma, senz'altro europea, per quanto riguarda appunto il pensiero filosofico, in questo caso declinato in termini musicali e con una ricerca, insomma, musicale e di identità nazionale, non solo, insomma, sonora, musicale, ma ovviamente culturale. E se Christian von Borries prendeva come riferimento Wagner, seppur contestualizzandolo in maniera piuttosto particolare, beh, un altro personaggio che ama rendere tutto trasformabile dall'identità sessuale all'identità musicale, fa questo lavoro anche in questo forse leggere in maniera transgender Debussy, sì, probabilmente potremmo trattarlo in questa maniera. Terre Telmitz, savant sans dire, un genio, uno dei geni viventi del nostro tempo, che rilegge Debussy, e poi sentiremo anche un altro personaggio, tra l'altro tedesco, che leggerà in un'altra maniera altrettanto geniale, appunto, il grande compositore francese.